Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione radiofonica pensata sforzandosi di includere nella sua considerazione fringuelli bengalesi, oranghi, pipistrelli e orche marine. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Questa è la prima puntata di Restiamo Animali che viene registrata successivamente allo svolgimento del Festival cinese della carne di cane di Yulin. A Milano il 21 giugno scorso in piazza Cairoli si è svolta una manifestazione di protesta contro il Festival di Yulin e non vi sorprenderete di sapere che anche questa volta la nostra corrispondente Roberta Marino c'era. Yulin è una città della provincia meridionale della Cina, tristemente nota per ospitare ogni anno il Festival della Carne di Cane, una manifestazione creata nel 2009 per incentivare il turismo. Il turismo, sì, anche se in tutto il mondo si sono sollevati cori di proteste, nello stesso paese 11 milioni di abitanti hanno firmato una petizione per chiedere l'abolizione del festival. Yulin nessuno lo vuole, insomma, eppure va avanti, nonostante le polemiche e le manifestazioni. In Italia, il 21 giugno, data d'inizio del festival, gli animalisti sono scesi in piazza per chiederne a gran voce la fine. A Milano la manifestazione è stata organizzata da OIPA. Abbiamo raggiunto Virginia Pinna, referente a Milano per l'associazione. Visto che non ci sono allevamenti di cani in quanto sarebbero troppo onerosi, i cani che vengono macellati al festival sono di proprietari, quindi cani domestici sottratti in seguito anche a aggressioni a danni dei proprietari molto gravi e anche omicidi nei casi più estremi, oppure sono cani randagi raccolti brutalmente dalle strade. Quindi ovviamente la popolazione cinese inizia anche a indignarsi e molti animalisti e attivisti in Cina si stanno muovendo contro questa manifestazione. L'interesse dell'opinione pubblica internazionale ha portato a un notevole ridimensionamento del festival. Molti meno animali sono stati uccisi rispetto agli anni passati, quindi il nostro impegno e il nostro farci sentire ha indubbiamente avuto un effetto positivo. Dopo un breve corteo, alcuni interventi al microfono hanno sottolineato come anche in Italia non sia da meno quanto a massacri di animali nei macelli. Di seguito alcuni momenti degli interventi di Valerio Pocar, garante dei diritti animali al Comune di Milano, e Massimo Comparotto, presidente OIPA in Italia. Perché il fatto che si uccida un cane per mangiarselo è un atto orrendo? E perché i 60 miliardi di animali che vengono scannati ogni anno nei macelli sparsi in tutto il mondo ci suscitano meno orrore? Bravo! In Cina si consuma meno carne di quanta le consumiamo noi nei cosiddetti paesi civilizzati, tra virgolette, o così detti occidentali. Tenete presente che in Cina fino a qualche anno fa era vietato costituire un'associazione ambientalista, neanche animalista. Adesso esistono associazioni ambientaliste, esistono associazioni animaliste, esistono tante persone cinesi in Cina che combattono insieme a noi. Nel corso della manifestazione alcuni attivisti dell'associazione Oltre la Specie hanno distribuito un volantino per proporre un altro punto di vista, ribadire l'importanza di una visione più globale sul tema della questione animale. Sentiamo Giorgio e Sandra di Oltre la Specie. Spesso in queste occasioni animaliste che soffrono di derive conservatrici, destrorse, pseudorazziste nei confronti per esempio in questo caso del popolo cinese, ecco, c'è il rischio di incorrere in questo. Volevamo ricordare che solite patiscono i cani nostrani. Ci sono cani che finiscono per essere cavi da laboratorio, cani alla catena, cani che trascorrono tutta la loro vita all'ergastolo come prigionieri politici nei canili, cani vittima di razzismo, no? Selezionati sulla base delle loro caratteristiche genetiche per corrispondere alle nostre aspettative, cani addestrati per essere delle armi. Più facile puntare il dito e pensare di impartire una lezione di civiltà ai cinesi piuttosto che effettivamente fare i conti con la realtà locale. Guardando i canili, le condizioni in cui versano i canili, il fatto che il randagismo appunto è un fenomeno sempre in aumento, eccetera, viene da pensare che forse una battaglia da fare sarebbe contro ogni allevamento, quindi anche gli allevamenti di cani di razza. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Abbiamo detto la settimana scorsa, qualcosa sta cambiando anche in Cina e sono sempre più numerosi gli attivisti cinesi che si spendono per fermare il consumo della carne di cane per i più svariati motivi: perché è crudele, perché è illegale, perché i cani sono considerati animali d'affezione e non animali da reddito, esattamente come da noi. La liberazione animale deve passare anche dal superamento di questi steccati, riteniamo. Ma mentre la invochiamo, non possiamo che appoggiare chi gli animali li salva davvero, mettendo a rischio la sua incolumità e mettendo tempo ed energia al servizio di una causa così difficile. Segnaliamo almeno due persone che negli ultimi anni sono salite agli onori della cronaca per il numero impressionante di cani che hanno salvato opponendosi al Festival di Yulin. La prima è una donna, la signora Yang Xiaoyun, di 65 anni, che lo scorso anno ha speso 150.000 yuan, il corrispondente di 15.000 sterline, per salvare 360 cani e decine di gatti dal festival. La signora Yang ha sostenuto: "Spero di poter fondare presto un rifugio per i cani e un ristorante vegetariano a Yulin". Il secondo attivista che segnaliamo si chiama Mark Ching, è un attivista di origini asiatiche che vive a Los Angeles. Grazie alla sua continua azione diretta, Mark ha fatto chiudere un macello di cani in Cambogia, ha fatto sospendere il lavoro in più di 6 macelli in Cina e ha girato dei filmati sotto copertura spacciandosi come acquirente di carne, portando poi clandestinamente in salvo tanti cani gravemente maltrattati, centinaia dei quali sono stati trasferiti negli Stati Uniti per la riabilitazione. Ching nei giorni scorsi ha reclutato una trentina di attivisti provenienti da vari paesi del mondo e si è recato a Yulin, dove ha salvato in varie aree recintate centinaia di cani che erano destinati a venire macellati. L'obiettivo di Mark Ching è quello di chiudere definitivamente i macelli e fermare il festival di Yulin, però salvare i cani fa parte anche della sua strategia e della sua inclinazione, diciamo, compassionevole. Mark Ching ha una pagina Facebook nella quale potrete trovare un video della liberazione di cani che ha realizzato a Yulin il 21 giugno scorso. Oh. E da una notizia ambientata in Cina passiamo a una notizia ambientata tra l'Australia e Milano. Peter Singer è stato un grande anticipatore della questione animale e il suo arrivo in Italia per la promozione dell'ultimo libro intitolato La cosa migliore che tu puoi fare, edito da Sonda, ha stimolato la curiosità e la voglia di ascoltare dal vivo questo famosissimo filosofo australiano che ora è docente negli Stati Uniti. Ma è difficile negare la nostra delusione. Singer ha illustrato il suo concetto di altruismo efficace concentrandosi sull'idea di indirizzare donazioni e beneficenza verso le ONG più efficaci. Una proposta certo non nuova né originale, semmai un passo indietro rispetto al percorso di rinnovamento e di trasformazione della società intrapreso dal movimento animalista e antispecista. Insomma, niente che abbia a che fare con la forza argomentativa che aveva avuto il suo libro Liberazione Animale, un libro del 75 nel quale Singer aveva rivelato a milioni di persone le atroci sofferenze che le nostre attività produttive impongono agli altri animali e aveva affermato che ogni vivente deve vedersi riconosciuto il diritto a non soffrire. Abbiamo comunque deciso di intervistare il professor Singer e chiesto anche al professor Luigi Lombardi Vallauri, il nostro filosofo di riferimento, amico della non violenza, che era presente assieme a noi alla conferenza milanese, di esprimere il suo punto di vista sul pensiero di Singer. Il suo libro più famoso, Animal Liberation, è stato pubblicato 40 anni fa. Cosa pensa che sia cambiato da allora? There have been a lot of changes. When Animal Liberation appeared, ci sono stati molti cambiamenti. Quando apparve Animal Liberation, molta gente semplicemente rideva all'idea. Era molto difficile far accettare seriamente alle persone che gli animali potessero avere dei diritti e che dovessero avere uguale considerazione per loro. Oggi non dico che sia di tutti, ma è molto diffusa l'idea che noi dovremmo averla, questa considerazione per gli animali. E ci sono anche molti cambiamenti pratici. Ad esempio, nell'Unione Europea oggi esistono leggi che hanno migliorato la vita dei cosiddetti animali da allevamento. Siamo ancora molto lontani da ciò che dovrebbe essere, ma è sicuramente molto meglio di prima. Cosa pensa della nozione di antispecismo? Penso che dovremmo riconoscere che lo specismo è sbagliato, che è per certi aspetti simile al razzismo e al sessismo. Quindi tutte le persone che rigettano il razzismo e il sessismo dovrebbero rifiutare anche lo specismo. Pensa che sia possibile fare un parallelismo tra la liberazione animale e la storia della liberazione degli schiavi? Penso che il parallelismo sia possibile, anche se non penso che sia la stessa cosa. Entrambi sono esempi di come un gruppo possa usare altri soggetti per i propri scopi e poi giustificarsi. Se si guarda la storia della schiavitù, si vede che le persone hanno prodotto argomentazioni terribili per giustificarla. Dicevano che sarebbero stati meglio, che sarebbero diventati cristiani, che le loro anime sarebbero state salvate e cose del genere che noi oggi naturalmente rigettiamo. Ma similmente, verso gli animali, le persone hanno giustificazioni ideologiche, che Dio ci ha dato il dominio su di loro, che noi solo siamo stati fatti immagini di Dio, che la nostra capacità di ragionare in qualche modo ci dà il diritto di ignorare i loro interessi. Conta di più l'azione individuale o l'azione politica collettiva? Se potessimo avere un'azione politica collettiva, questa sarebbe certamente la cosa migliore da fare. Ma la situazione è un'altra e ci dobbiamo chiedere: cosa posso fare io in un mondo imperfetto nel quale non abbiamo le strutture politiche ed economiche che vorremmo? Posso agire io in qualche modo? Il movimento per l'altruismo efficace dice di sì. Ci sono cose che ciascuno può fare, cose concrete che determinano una differenza reale per specifici individui. Pensa che sia possibile combinare il capitalismo con la liberazione animale? Penso che il motivo per cui non abbiamo la liberazione animale non sia connesso con il capitalismo. Lo specismo e lo sfruttamento degli animali esistono da molto prima del capitalismo e anche nei sistemi economici non capitalistici, come l'Unione Sovietica nell'era comunista, puoi trovare uno sfruttamento degli animali molto simile. Certo, il capitalismo ha accelerato alcuni dei problemi. Può aver reso più difficile per gli allevatori tradizionali sopravvivere e più semplice per le grandi corporation avere il sopravvento. Ma il problema è più profondo rispetto all'esistenza del capitalismo. Abbiamo bisogno di cambiare le nostre abitudini verso gli animali non umani, qualsiasi sistema economico dovessimo avere. Lei sa certamente che c'è qualcuno che l'accusa di fare propaganda eugenetica. Qual è la sua risposta a queste accuse? Non è un'accusa molto seria. Non mi preoccupo nemmeno di rispondere. Sostiene Vallauri. Peter Singer ha avuto il merito grandissimo di pubblicare nel 1975 Animal Liberation, un libro apertista che ha inaugurato, si può dire, il movimento oggi mondiale verso il riconoscimento dei diritti animali. Io l'ho letto negli anni 80 insieme a The Case for Animal Rights 1983 del suo rivale teorico Tom Regan. Dico rivale perché Singer fonda la liberazione animale sull'utilitarismo, mentre Regan la fonda sul concetto dell'animale come soggetto di una vita, quindi in modo più ontologico, esistenziale. I due hanno incrociato le spade teoriche tra loro, le hanno rivolte entrambi contro la spaventosa reificazione degli animali perpetrata dai dominatori umani. Entrambi mi hanno aiutato nella mia conversione animalista, avvenuta per merito di Silvana Castignone e di altre donne, nota bene, donne, intorno al 1985. Da Singer io traevo soprattutto l'idea rivoluzionaria di valutare e confrontare gli interessi indipendentemente dai loro portatori. Un interesse alto, vitale, doveva prevalere su un interesse basso e non vitale, chiunque fosse il soggetto portatore di quell'interesse. Esempio, l'interesse di un coniglio serio a non perdere la vista per un esperimento su un collirio doveva prevalere sull'interesse di una ragazza vanitosa di avere gli occhi più brillanti in discoteca. Insomma, ecco la tesi rivoluzionaria del 75. C'erano interessi animali più importanti di interessi umani. Dunque, diritti animali più meritevoli di tutela di antagonistici diritti umani. Avendo apprezzato e recepito nei miei primi scritti sugli animali la tesi di Singer, quando ho saputo che lui parlava a Milano sono andato a sentirlo anche per la curiosità di vedere l'icone, il darshan, si direbbe in sanscrito, del mitico Peter. Beh, e non posso nascondere di essere rimasto un po' deluso. Ha sostenuto, con uno stile straordinariamente banale, tesi lapalissiane del tipo che il bene è meglio del male, e che il bene efficace è meglio del bene non efficace, ma soprattutto si è concentrato quasi esclusivamente sul bene consistente nel donare soldi in modo efficace. Per esempio ha lodato un suo studente che ha lasciato la filosofia per Wall Street e così è diventato ricchissimo e ha potuto fare moltissima beneficenza efficace. E ha citato molti enti statunitensi, tra cui uno suo, che consigliano il giving well, il donare soldi giusto, efficace. Mi sono detto, uno, ma allora puoi fare il bene solo in proporzione a quanto sei ricco? Devi diventare ricco per poter fare il bene? E il povero? Due, siamo sicuri che nella società di oggi si diventi ricchi facendo il bene? Ma non capita che si diventa magari ricchi facendo molto male e poi ci si salva l'anima con la beneficenza? Terzo, la sua posizione mi ha ricordato quella della Chiesa antisocialista di un tempo che non toccava, anzi consacrava la proprietà a condizione che i ricchi poi si santificassero facendo la carità ai poveri. Per quanto riguarda gli animali, Singer ha criticato anche con una foto spaventosa di un pollaio intensivo quello che succede negli allevamenti industriali e nei mattatoi, ma complessivamente la questione animale è rimasta sullo sfondo. In conclusione, ho trovato il Singer del 1975 più interessante del Singer di oggi, però di Singer resta comunque il suo essere stato un grande iniziatore. to the broken sound. You're the only one that can calm me down. My head spins in circles, so I'm dizzy now. All of this time I should have figured it out. I'm a free animal, free animal. I'm a free animal. Comune la conduttrice televisiva Cristina Parodi, il dirigente sportivo Demetrio Albertini, lo chef Carlo Cracco e il medico nutrizionista Giorgio Calabrese? Ve lo spieghiamo noi. Hanno in comune la campagna Ora del Latte, una campagna inserita in una serie di iniziative a sostegno del settore lattiero-caseario. Infatti, un anno dopo la fine del regime delle quote latte, i prezzi di questo alimento sono crollati e l'invasione dei prodotti esteri prevista è arrivata. Il sostegno al comparto, però, è poderoso. Tasse tagliate del 25%, aumento della compensazione IVA al 10%, moratoria di 30 mesi sui mutui delle aziende lattiere e 21 milioni di euro di aiuti straordinari per 25.000 allevatori. Il tutto inserito in un piano italiano di aiuto al settore lattiero-caseario che consiste in 120 milioni di euro in 3 anni. Alla faccia del libero mercato. La campagna Ora del Latte consiste in un sito internet, in uno spot video e in banner e pubblicità che appaiono un po' ovunque. Ma sono molte le polemiche suscitate da questa campagna che ha sbagliato parecchie mosse. Almeno 2 dei 4 testimonial sono dei personaggi, infatti, che sono già stati più volte oggetto di critiche e di polemiche. Uno è Cracco, il noto sexy chef già al soldo delle patatine San Carlo, che si fece ritrarre sul mensile GQ assieme a una donna nuda che lo abbracciava impugnando un grosso pesce morto proprio in corrispondenza del cavallo dei suoi pantaloni. Questa copertina venne giustamente censurata dal giurì dell'autodisciplina pubblicitaria in quanto lesiva della dignità femminile. L'altro testimonial è Giorgio Calabrese, nutrizionista, nominato dal Ministero della Salute nel mese di aprile 2015, presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Giorgio Calabrese nei video e nelle foto della campagna indossa un camice bianco da medico, dando così una parvenza di autorevolezza scientifica alle affermazioni che fa la campagna. In effetti però la credibilità di Calabrese non è propriamente granitica. Tempo fa si era scagliato contro l'olio di palma, salvo poi ricredersi diventandone uno dei più infervorati paladini. Ma la campagna Ora del Latte ha anche un difetto di merito, perché nel suo sito internet il latte viene definito alimento indispensabile in tutte le fasi della vita degli individui e anche viene definito indispensabile per il nostro organismo nelle varie fasi dello sviluppo e dell'età adulta. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. La LAV, Lega Antivivisezione Italiana, ha tempestivamente reagito chiedendo l'intervento dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Una mossa che si è rivelata opportuna e vincente. Infatti, l'Istituto, chiamato a contrastare le pubblicità ingannevoli, ha dichiarato che il latte effettivamente non può essere definito indispensabile e questo termine è stato immediatamente sostituito dall'aggettivo importante. C'è una bella differenza tra indispensabile e importante. Dobbiamo però tenere sempre alta la guardia, perché registriamo continui tentativi di convincere i consumatori che è impossibile vivere senza alimentarsi con le proteine animali. Però questo è contraddetto dalla scienza, dalla vita di milioni di vegani in tutto il mondo e in tutte le epoche. Per concludere possiamo dire che il bilancio sembra piuttosto disastroso. Il comparto lattiero-caseario è crudele, causa agli animali indicibili sofferenze che ormai sono sotto gli occhi di tutti, per giunta è in crisi e ci sta costando centinaia di milioni di euro. Le campagne ministeriali a favore del latte diffondono informazioni scorrette e i più prestigiosi consulenti del governo si prestano a questo gioco, proponendoci di aumentare il consumo di un alimento che in realtà è sempre il primo a essere tolto, come sa chiunque si sia rivolto a un nutrizionista responsabile. Per fortuna ci sono i social network che hanno reagito creativamente diffondendo un ironico controspot. Eccone l'audio. La mattina, per iniziare la giornata con la cacarella, io scelgo il latte fresco industriale, anche per i miei ragazzi. Quando serve una ricarica, un po' di antibiotici, e quando mi sento un vitello, io bevo latte fresco industriale. Per fare un pieno di gusto, scelgo il latte fresco industriale per scoprire il sapore del latte da mucche alimentate con mangimi OGM. Studi contrastanti, inchieste, possibili residui di farmaci e PUS. Tanti sono i dubbi sul latte fresco industriale. È sempre l'ora per difendere la tua salute. Signora, mi chiedo un latte buono, che cavolo latte, un latte buono. Mi chiedo un latte, A proposito di latte, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che da anni è testimonial della campagna Ora Basta Latte, propone ricette pannose e cremose, squisite, tutte 100% cruelty free. Stavolta si è superato e ci propone una ricetta dannosissima ed etilica, tra i cui sapori e gradi alcolici e tra le cui calorie ci dimenticheremo le malaugurate vicende del comparto lattiero caseario. Prendete carta e penna, ma soprattutto tenete pronta una salvietta, perché stavolta, secondo me, vi faremo letteralmente sbavare. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Citando la nostra mitica Camilla, che ha appena saputo la ricetta di questa puntata, ha commentato: quando ci vuole, e in questo periodo ci vuole. Ecco a voi la panna cotta al latte di cocco con ganache al rum e cioccolato. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di latte di cocco, 150 g di panna di soia, un cucchiaino di agar agar in polvere, 80 g di zucchero di canna, vaniglia, 50 g di cioccolato fondente e una tazzina di rum. In una pentola unite il latte di cocco, 100 g di panna di soia, lo zucchero, l'agar agar e qualche seme di vaniglia. Non molti, perché l'aroma di vaniglia deve esaltare quello del cocco e non coprirlo. Portate tutto ad ebollizione affinché l'agar agar possa sciogliersi bene e in seguito, raffreddandosi, compattare il nostro dessert. Togliete dal fuoco e versate il contenuto in 4 bicchieri o coppette e lasciate riposare per un'ora. Mentre la panna cotta si raffredda e addensa, sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria, avendo l'accortezza di non far bollire l'acqua, al fine di non disperdere gli oli essenziali del cioccolato. Quando sarà ben fuso, aggiungete i rimanenti 50 g di panna di soia ed il rum e mescolate lentamente con una frusta. Prima che si raffreddi, coprite le coppette con la ganache e fate riposare. Se lo gradite, potete decorare con scaglie di cocco fresco. E come sempre passiamo in rassegna le voci che ci hanno tenuto compagnia in questa mezz'ora e che sono quelle di Roberta Marino, Virginia Pinna, Valerio Pocar, Massimo Comparotto, Peter Singer, Luigi Lombardi Vallauri, Lorenzo Guadagnucci e la vostra solitaria conduttrice Camilla Lattanzi. Ritroverete la trasmissione Restiamo Animali tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.